figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valentina Furlaneto, benvenuti in questo spazio dedicato al volontariato, al non profit, al sociale. Noi che ci occupiamo appunto di questi temi non potevamo ignorare quello che è accaduto e sta accadendo ai vertici di una delle organizzazioni di volontari più grande del nostro paese e più importante. Parliamo ovviamente della Protezione Civile e dell'inchiesta che coinvolge i vertici del Dipartimento. In questo spazio vogliamo dare voce invece ai volontari, quelli che da decenni prestano il loro tempo, le loro energie a questa organizzazione che conta 700 dipendenti e 800.000 volontari. In tutta Italia. Come stanno vivendo allora lo scandalo che intacca la credibilità del loro leader Guido Bertolaso? E cosa ne pensano del decreto legge che voleva trasformare la Protezione Civile in SPA? E infine, come hanno vissuto negli ultimi anni la gestione non solo delle emergenze, ma anche dei grandi eventi che, secondo alcuni, poco hanno a che fare con la mission iniziale del Dipartimento. Luigi Fasani è uno dei primi volontari della Protezione Civile, è attivo dal 1976, è stato coordinatore per la provincia di Milano. Dispiace perché il dottor Bertolaso, non dimentichiamo che è stato quello che in questi anni ha condotto la Protezione Civile in Italia, no? E l'ha portata ai traguardi che conosciamo tutti. Speriamo che non sia assolutamente vero quello che dicono in giro. Cosa ne pensa lei e i volontari del decreto legge che voleva trasformare la Protezione Civile in società per azioni? È chiaro che per chi fa il volontario mi spiace sentire che la Protezione Civile debba diventare una SPA, in quanto chi fa il volontario lo fa per dare disponibilità del suo tempo libero o liberato, perché molte volte tutti pensano che noi diamo il tempo libero, ma in realtà è un tempo liberato, perché è quello che noi togliamo al nostro tempo libero, alla famiglia, al riposo, alle vacanze. Questa è la nostra mission, perché non abbiamo altre intenzioni, altre motivazioni. Pensare che la Protezione Civile deve diventare una SPA, uno dice faccio il volontario per gli interessi di qualcuno, perché un SPA è sempre poi una società che deve trarne degli utili. Io, sentendo in giro anche altri colleghi, li ho sentiti tutti un po' amareggiati e demotivati. La Protezione Civile in questi anni è cambiata. Una volta si trattava di gestire solo l'emergenza e la prevenzione, ora fa anche altro. Lei come ha vissuto questo cambiamento? Guardi, io ho iniziato negli anni 70, diciamo che ho iniziato precisamente come Protezione Civile col terremoto del Friuli. In realtà allora si parlava solo di soccorso, perché con la legge degli anni 70 la Protezione Civile era solo soccorso, e solo nel 1992 con l'attuale legge che si parla di prevenzione e previsione, soccorso e superamento dell'emergenza. Mi spiace poi vedere che ci sono dei paesi che stanno sfranando completamente. Ecco, forse l'amarezza è vedere che nella prevenzione forse si sta investendo ancora poco. E invece si investe molto nei grandi eventi. La Protezione Civile ultimamente si è occupata un po' di tutto, dal G8 al Papa, ai eventi sportivi. Cosa ne pensa? Sono emergenze? Ci sia bisogno di dare sicurezza alla popolazione in termini di sicurezza all'interno di un evento, non ordine pubblico, perché questo aspetta altri organismi. Penso che noi dovremmo restare nei nostri ambiti e seguire quello che è il dettame che dice la legge. Il dottor Bertolaso lo conosce di persona? Sì, l'ho conosciuto e direi che è un'ottima persona. Io la mano sul fuoco non la metto su nessuno. Personalmente, conoscendolo, non ho una stima della persona, poi nel suo privato non posso essere certo io che va a mettere il becco. A parte il tutto, non possiamo considerare uno colpevole fino a quando non se ne hanno le prove di questo fatto. Da Milano a Caserta abbiamo sentito Enzo De Lucia, responsabile provinciale, anche lui attivo dagli anni 70. Noi adesso siamo diventati, tra virgolette, la barzelletta del paese. Per cui chi mi incontra vuole sapere se io conosco Francesca, chi mi incontra vuole sapere se io conosco qualche altra cosa. Quindi capirà benissimo che la cosa seria che noi cerchiamo di portare avanti da quando è stata istituita il Servizio Nazionale di Protezione Civile l'abbiamo buttato a carta e quaderno. 50.000 cose fatte bene, il Molise, l'Umbria, l'Abruzzo, la Sarno, che le dico, tutte fatte bene, eccezionali. Una stupidaggine da accettare, la Protezione Civile italiana è da buttare. Ma lei la vive più con ironia o con dispiacere? con un poco di preoccupazione anche per la questione della SPA. Quello che è stato fatto parla per tutti, quindi i fatti sono quelli che parlano e dicono veramente qual è la forza della Protezione Civile Italiana. Ma lei quando dice sulla questione della SPA, intende la SPA il centro benessere o la SPA? SPA, la SPA, il centro benessere non so nemmeno che cosa sia. Allora, guardi, noi abbiamo nella nostra organizzazione, sia quella che io mi onoro di rappresentare, ma soprattutto la colonna mobile provinciale, c'è una forte componente femminile. Certe volte mi sento in minoranza, comandano loro, per la verità. E giochiamo su queste, adesso stiamo giocando su queste cose, ma non andiamo al di là. Rimane l'ironia del fatto, ma la cosa importante invece è continuare a credere in queste cose. Ripeto. Lei da quanti anni fa il volontario per la Protezione Civile? Ho partecipato meglio a tutte quante le più grosse emergenze italiane all'estero, Jugoslavia, Albania e Romania compresa, quindi diciamo che dal 1972. E sono esattamente più di 35 anni che partecipo attivamente. Lei giustamente parlava di questo decreto che ormai è caduto sulla trasformazione, certo, in SPA. Sì, sì, come esatto. È stata vissuta dalla base questo tentativo di modifica? La verità è che noi ci siamo meravigliati che questa cosa fosse giunta in discussione nei posti competenti al Parlamento. Cioè, noi avremmo voluto non farla proprio arrivare perché non eravamo d'accordo su questo, noi eravamo d'accordo. Abbiamo visto. Voi eravate contrari? Certamente, sì, sicuramente. Perché? Sì, era un modo diverso di gestire la straordinarietà, non so se riesco a farmi capire. Già i poteri straordinari sono eccezionali e danno la possibilità di fare tantissime altre cose. La SPA avrebbe dato ulteriore, secondo noi, pure i grandi eventi forse probabilmente andavano gestiti diversamente, forse non era il caso delle Olimpiadi, del nuoto, forse non era il caso, però se lei prende i funerali del Papa, no? Quello è stato un grande evento di Protezione Civile a tutti gli effetti, ma certamente non era lo stato del nuoto, il G8 Alteo. Lei l'ha conosciuto, lo conosce Guido Bertolaso? Dottore Bertolaso, che ho avuto modo di conoscere in tantissime occasioni di intervento, ho di lui un'immagine bellissima. Molise, riunione drammatica per la chiusura dei campi alla fine dell'emergenza, tutti seduti su marciapiede a mangiare un panino, e discutendo con lui sulla necessità di togliere e con il dottore Miozzo, mi ricordo il ministro, sulla necessità di chiudere urgentemente i campi in Molise perché finita l'emergenza bisognava far tornare la regione alla normalità, all'ordinarietà. Lei ci metterebbe la mano sul fuoco? Dunque, per quanto riguarda gli affari personali, esulano da quelli che possono essere i nostri interessi. Io credo che sia una persona in gamba e che va rispettata per tutto quello che ha fatto. Dalla Campania all'Emilia Romagna. Parliamo adesso con un altro volontario storico della Protezione Civile, Enore Anselmi. Vedo che la base è abbastanza compatta, insomma, mi sembra abbastanza compatta con la dirigenza, in particolar modo, sì, con Bertolaso per quello che sta succedendo, insomma, e c'è molta preoccupazione che magari possa lasciare, perché credo che per noi sia un punto di riferimento importante, sono tutti dalla sua parte, insomma, quindi ci auguriamo che sia una cosa che si risolva alla svelta e che soprattutto rimanga al suo posto, perché per noi è una persona molto valida. Tralasciando per un attimo l'inchiesta alla quale si dedicherà la magistratura, qual è la sua opinione sulla trasformazione in questi anni della Protezione Civile, da dipartimento che si occupava solo di emergenza e prevenzione a un dipartimento che si occupa di molte altre cose? Io la vedo una cosa positiva quello che stanno facendo, anche perché vedo che le risposte da parte del volontario ci sono, quindi non ho mai sentito critiche di dire ma questo non lo facciamo, forse, insomma, vedo che in tutte le iniziative le risposte ci sono e anche di grande adesione, quindi. E intanto si scopre che il volontariato di emergenza, anche per l'attenzione mediatica che catalizza, ha molto più appeal sui giovani di quanto non abbiano altre forme di volontariato come quello di prossimità. Lo ha documentato un'inchiesta del settimanale Vita, un trend positivo che riguarda tutte le divise, ma in particolare proprio la protezione civile. Dal gennaio 2007 al gennaio 2010 l'aumento di iscritti è stato, pensate, del 23%. Secondo Stefano Zamagni, presidente dell'Agenzia delle Onlus, è un fenomeno che si inquadra nel mediattivismo. Abbiamo svolto una ricerca in 4 paesi europei, ha detto, ed è emerso il ruolo fondamentale dei media nella motivazione al volontariato. Cioè, insomma, pesa il fatto che il volontariato di emergenza passa in televisione, quello di prossimità no. Vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima, 14:15, sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore.